X24, la storia. Facciamo questo combattimento a capo, nel campo profughi, con un avversario, con uno slavo che si chiamava Tongo Trojanovic. Era un ragazzo che aveva un fisico quadrato, con delle braccia che mi sembravano due clave. E avevo una paura terribile di questo avversario, che l'avevo visto allenarsi e sapevo come picchiava. Fra me e me pensavo, sono 9 minuti, passeranno. Non vuoi fare una brutta figura, non devi aver paura, devi attaccare. E io mentre scappavo, nella seconda ripresa, scappavo come un pazzo e lui mi inseguiva e tirava cazzotti da tutte le parti. Io mi fermai all'improvviso e portai un destro che partì con una velocità spaventosa, proprio per la paura che io avevo. Cioè, volevo colpire e scappare nuovamente subito. Trojanovic cadde a terra, faccia a terra, mi ricordo. E poi si rialzò a 8. E io avevo il cuore veramente in tumulto, pensavo, speravo in Dio, pregavo che non si alzasse. Invece lui a 8 si rialzò. Si dovette iniziare un'altra volta a combattere, però ormai quel colpo che gli avevo dato, no, l'avevo completamente stordito. Sconfiggere la paura e trovare la forza di affrontare gli avversari. Quando si iscrive in palestra, Tullio Pironti, l'editore napoletano con un passato da pugile, ha solo 15 anni. Sono gli anni difficili del dopoguerra in una Napoli dove la rabbia e la fame trasformano le scazzottate per strada in un tentativo di rivalsa sociale. Questo è il racconto di oggi a Mix 24, quell'avventura, quei giorni, la storia di un gruppo di scugnizzi che per venire fuori dalla delinquenza, dalla miseria, scommette sui propri muscoli e cerca un sogno su un ring di provincia. Questa è una storia di ragazzini cresciuti sotto i bombardamenti in una Napoli d'apocalisse, ai quali un giorno d'autunno capita un fatto straordinario, come raccontano lo scrittore Vittorio Paliotti e il regista Francesco Rosi. Il 1 ottobre 1943 entrano a Napoli le truppe anglo-americane, trovano una città in ginocchio, nel senso che Napoli aveva subito durante il periodo della guerra qualcosa come 100 bombardamenti. Napoli era al buio totale, completo, illuminata solamente da questi occhi di una serie interminabile di camion americani che squarciavano il buio facendo vedere queste rovine. Ecco, la prima impressione che io ho avuto di Napoli è stata che Napoli non esisteva più. Nella città, distrutta e affamata, si avvera un nuovo fatale incontro, raccontato da Roberto Rossellini nel film Paisà, quello fra lo scugnizzo e il soldato americano. Sentiamo Tonino Borraccia, ex pugile, uno scugnizzo che vende gli americani. Guarda che belli lì, gli ha distinto lì. Ora la giù lo tu sai, è una bestia, e tu la giù. Nel 1943 ero scugnizzo, io, il famoso film dove si vendevano gli americani, io ero uno di quei ragazzi che vendevano gli americani. Io lo portava o da mangiare o da delle signorine. E c'erano delle bande che prendevano questi americani, li riempivano di botte e si prendevano tutti i soldi. Tutto, portafoglio, tutto. Siccome i ragazzini non mi davano dei pochi soldi, vieni qua, dammelo a me questo. Questo è buono per me. Molte volte li mettevano con la testa della spazzatura, questi americani, quanti. Ci sono aneddoti a non finire che raccontano proprio questo. Io ho un americano, te lo vendo, quanto mi dai? Perché americano significa questo, e significa per molte donne anche la promessa, una chance di mobilità sociale, di vita diversa. Molte donne sposeranno poi gli americani, molte ragazze napoletane andranno a vivere negli Stati Uniti. Ad altri rimarranno invece solamente dei vantaggi economici e svantaggi sociali di altro tipo. È uno scenario da tammurriata nera, da figli di colore, tant'è vero che la Napoli di quegli anni è piena di bambini di colore. Avete sentito l'antropologo Marino Niola. Napoli è una città ribollente e vitale, drammaticamente vitale. Sono gli anni in cui poi fiorisce tutta un'aneddotica sulla Napoli povera, che però è ricchissima di fantasia, di generosità, di umanità. Per la strada si faceva pugni e il fisico era una fonte di guadagno. I pugili non facevano i pugili a tempo pieno, ma facevano altri lavori che avevano sempre a che fare con la forza fisica, scaricavano pesi o altre cose. Quindi è l'eterno, è il mestiere dei poveri di tutte le culture, di tutti gli uomini. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di un gruppo di scugnizzi che a Napoli, nel dopoguerra, decide di puntare sui propri muscoli. Mix24, la storia. Rieccoci a Mix24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia del dopoguerra e di una possibilità, grazie al pugilato, di vincere la fame e di vivere una vita migliore. In una Napoli ridotta allo stremo, i ragazzi pugili esprimono un sogno: assomigliare ai nuovi idoli americani che in quei giorni sono più vicini a loro grazie all'arrivo degli alleati. Joe Louis, il campione dei pesi massimi che ha sconfitto il gigante Primo Carnera, è arrivato a Napoli come marine. Qualche pugile napoletano come Luigi Fasulo avrà la fortuna di addestrarsi con lui per le strade della città. È l'idolo di molti, tra cui Tullio Pironti. Sentiamolo. Il mio idolo era John Lewis, era un negro che perse, era campione del mondo, negro americano, campione del mondo, che perse ed abbandonò il pugilato con Rocky Marciano, che era italo-americano, grandissimo pugile anche lui. Io mi ricordo che andai su questa porta aerea che stava ferma nel porto di Napoli, e vidi un negro che si allenava vicino al sacco, portava dei colpi terribili, micidiali. Chiesi al maestro: ma quello chi è? Disse: è quello che devi combattere tu. Se no, maestro, non ci pensate proprio, io con questo non ci faccio. E andai via. Ma io rimasi spaventato dal fisico di questo, poi anche perché era di colore, faceva ancora più paura. Joe Louis, Rocky Marciano, Jack LaMotta. Per il pugilato, la seconda metà degli anni 40 segna la definitiva affermazione della cosiddetta scuola americana. Tutti e tre sono arrivati in Italia con la divisa militare e si combatte sulla portaerea americana, come descrivono gli ex pugili Tonino Borraccia, Tullio Pironti e il maestro di box Geppino Silvestri. Mi hanno mandato pure a me su questa nave. Io allora, sai, ragazzi, ho dato spettacolo, a botte. Così sono stato anche premiato per il pugile più combattivo. Fotografie mi hanno fatto, mi hanno regalato una divisa di marinai americani. I ragazzi napoletani fraternizzavano molto con i pugili americani, anche perché molti di loro erano oriundi italiani e quindi si trovavano a loro agio. Poi il fatto solo di andare a combattere sulla porta aerea americana era una cosa nuova per noi, e per cui i ragazzi si dedicavano di più. Gli italiani andavano sulla porta aerea a combattere solamente per i soldi, gli americani non se ne fregavano assolutamente niente, pronti a vendersi il match, e se c'era qualche match che vincendo si prendeva di più, si guadagnava di più, si poteva anche vincere. La maggioranza erano questi pugili in America, sai, che venivano reclutati e facevano i marinai, e alla volta si incontrava o un bidone o un campione, non c'era una media lì, no? Il capitano americano chiamava: tu vieni qua, si metteva sulla bilancia, 70 kg, tu vieni qua, quando sei? 69, va bene, questi erano gli accoppiamenti, senza sapere, ma tu quando incontri fatti, quando, come sei? E loro pagavano ogni incontro 2 stecche di sigaretta. E per ogni combattimento si davano 3 stecche di sigaretta. I pugili non fumavano all'epoca, quindi con le stecche di sigarette no. Sennò il pugile poi ci doveva vendere le sigarette, sennò. No, no, venivi pagati in soldi. Io ho sentito solo la parola i soldi, poi non ho visto niente. Niente, non so neppure quando si presero, perché evidentemente chi ci portò fece tutto lui la situazione. Avete sentito l'ex pugile Agostino Cossia? Insomma, non importa chi siano gli avversari. Quello che conta per i nuovi pugili napoletani, campioni improvvisati, è scendere dalla portaerei americana con in tasca una stecca di sigarette da rivendere al mercato nero, come ricordano il regista Francesco Rosi e il pugile Tullio Pironti. Questi pacchetti meravigliosi erano una festa degli occhi prima di essere una festa del gusto. Sigarette? Gialle, con il fondo marroncino, poi rosso, color tabacco con delle puntine. Inglese, americano, svizzere, chi fuma? Sembra paradossale, ma chi si salvò dalla fame fu il contrabbando. Contrabbando che si teneva a Forcella, gestito dalla camorra napoletana. Però senza quel contrabbando non c'era niente. Mamma faceva pure un pochettino di contrabbando, so, carne all'epoca. Fagioli, pasta, pane. Era molto introfluato mia madre. Papà era un signore, papà era un antiquariato. Mia madre no. Mia madre era figlia di un pescivendolo, quindi una dritta proprio. Menava botte con tutti, con un uomo, tutto. Avete sentito il pugile Tonino Borraccia? Il mercato di Forcella è il più grande mercato clandestino a cielo aperto del dopoguerra e viene rifornito dalle truppe anglo-americane. Gli anglo-americani si servono per lo sbarco in Sicilia di Lucky Luciano, per l'avanzata in campagna di Vito Genovese, i quali erano venuti in Italia per organizzare l'adesione di vecchi mafiosi e vecchi camorristi in Campania, per rendere più agevole lo sbarco e l'avanzata degli anglo-americani. Il contrabbando ha salvato Napoli dalla fame all'inizio, però come dice giustamente Edoardo De Filippo nel suo capolavoro Napoli milionaria, dice, adesso però basta, avevamo fame, avevamo necessità, avevamo malattie, avevamo distruzioni, avevamo morte, però adesso basta. Adesso basta, avete sentito il regista Francesco Rosi. A Napoli c'è voglia di rinascita, di ritorno alla normalità. Ma in realtà, fra la gente che fa fatica a sopravvivere, si è insinuato qualcosa di più pesante del contrabbando delle sigarette. Con l'aiuto degli alleati, che l'hanno usata per combattere i tedeschi, è tornata a comandare la camorra. Sentiamo il pugile Tullio Pironti. C'era un peso massimo, che faceva il mondaguappo. Lui andava in un locale. Quando doveva emergere un guappo, cioè un boss della malavita, e incominciava a guardare storto questo aspirante guappo. Il guappo incominciava a dire: perché mi guardi? Mi diceva: io non ti posso guardare, no, tu mi stai guardando troppo. Poi man mano incominciavano quasi a litigare. Quando il litigio stava per scoppiare, il peso massimo voltava le spalle e diceva: scusatemi, e se ne andava. In palestra questo fatto lo sapevamo e non lo apprezzavamo, perché i pugili che facevano questo mestiere era un mestiere che non ci piaceva. Il 31 luglio del 47, con la ratifica del trattato di pace, Napoli torna all'autorità italiana e del resto degli alleati molti napoletani cominciano ad averne abbastanza. Gli americani comunque rimangono nel porto di Napoli con le loro portaerei e con gli aiuti del piano Marshall. Non sono più i padroni della città, ma per i pugili napoletani restano sempre i soli che possono cambiare la loro vita. È quello che capita a Tonino Borraccia, lo scugnizzo che vendeva i soldati americani. Sentiamolo. Le forze armate americane, visto l'affluenza di pubblico, organizzavano anche loro delle riunioni, facendo combattere i pugili americani contro di noi. Siccome piaceva al pubblico, sono stato avvicinato da un capitano americano. Dice: ma tu se vai in America faresti fortuna, tu sei proprio il tipo che piace là. Allora io dico: ma se mi mandi il biglietto io parto. È venuto il giorno che abbiamo fissato con l'Andrea Doria, la famosa transatlantica, che poi dopo il viaggio dopo è affondato. Arrivato a New York, che cosa trovo? Ho visto un cartello enorme. Antonio Borraccia. Io sono rimasto perché logicamente io non conoscevo il manager, lui non conosceva me. Tramite questo affare con un grande Antonio Borraccia, allora ho fatto due combattimenti, ma non ho preso niente come soldi, perché tramite il ristorante, albergo, allora si paga tutto. La fortuna volle che c'era un titolo mondiale, come mi hanno presentato poi, lo Sciugnizzo di Napoli. Tutti gli italiani che stanno lì, perché io combattivo a New York, c'erano quasi tutti italiani. E poi Salcomà! Infatti poi ho conosciuto quello che comandava tutto il pugilato americano, uno dei più grandi gangster americani. Blinky Palermo era un siciliano. Io lo conoscevo attraverso la stampa, che c'erano le fotografie, l'ho riconosciuto. Ho fatto uno scatto, sono andato vicino. Mr. Palermo! Io mi arrangiavo a parlare americano, sempre quel famoso, che io prendevo gli americani e dico, ma lei mi deve aiutare. Io ho fatto tre incontri qua, non ho preso niente. Ho preso... Ma penso che non ho parlato più di 5 minuti. Mi ha dato, non mi ricordo, 50, 100 dollari e un biglietto di visita. Dice, vai qua, no worry. E sono andato all'indirizzo. C'era un uomo con... Faceva finta, secondo me, che lavava i bicchieri. Questa era tutta gente della malavita. Nel frattempo si parlava di un combattimento al Madison Square Garden. Era come la scala qua in Italia, è difficile a combattere, se non sei un grande pugile non si può combattere lì. Ho avuto la fortuna di combattere in un titolo mondiale, ma sempre perché, poi dopo mi sono accorto perché ero protetto da quest'uomo, altrimenti come faceva a combattere al Madison Square Garden? Insomma, anche lì ho entusiasmato. Entusiasmato subito, già mi volevano per la seconda volta. Ma fate dei soldi, perché io ho detto, sai, io devo spedire i soldi, perché in Italia non è che c'è. Allora lui, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare, spedisci i soldi. Insomma, ho fatto 4 incontri, i soldi che ho visto con loro non l'avevo visto con nessuno. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Oggi parliamo di campioni d'Italia, pugili scugnizzi che menano le mani in strada dopo la Seconda Guerra Mondiale per sopravvivenza. L'Italia è un'altra cosa, titola il giornale, quando Tonino Borraccia torna dall'avventura americana. E in effetti Napoli sta cambiando. La città è piena di iniziative, di creatività, di voglia di sorridere e di dimenticare la guerra. Dal cinema agli incontri di box, dagli spettacoli teatrali alla canzone napoletana. Chi poteva riemergeva con la cultura, chi non poteva con lo sport. Sui ring di tutta Europa si sta affacciando una nuova generazione di stelle del pugilato e cominciano a nascere dei nuovi miti. Siamo all'inizio degli anni 50. 16 giugno 1949. Il triestino Tiberio Mitri conquista il titolo europeo dei pesi medi battendo il leggendario compagno di Edith Piaf, Marcel Cerdan, che poco dopo morirà in un incidente aereo. Giovane, bello e imbattibile, Mitri accumula un successo dopo l'altro. Poi però Mitri incontra sulla sua strada Jack LaMotta, un toro scatenato che manda in frantumi il sogno italiano di conquistare il titolo mondiale. Come ricorda il pugile Tullio Pironti. Erano gli anni 50. A me piacevano tutti gli sport. Ma forse il pugilato è quello che mi catturava di più. Il pugilato all'epoca esercitava un discreto fascino sulle donne. Ricordo le grandi storie d'amore fra Edith Piaf e Marcel Cerdan, Tiberio Mitri e Fulvia Franco. Quindi forse anche ha inciso questo, che è la mia scelta per il pugilato. Pironti aveva una realtà di vita diversa dagli altri, non aveva questa necessità di guadagno. Lui parlava, lo faceva veramente come sport il pugilato, non è come noi altri, che aspettavamo quando combattavamo per prendere quei 2 soldi. Ma Ma se, come avete sentito dall'allenatore Geppino Silvestri e dal pugile Borraccia, Tullio Pironti, figlio di un libraio, vive in una condizione privilegiata, la grande maggioranza dei pugili sono operai, muratori, portuali, che si ammazzano di lavoro ma riescono a dedicare un po' del loro tempo alla loro vera unica passione. È il caso di Agostino Cossia, che dopo anni di sacrifici diventa campione d'Italia dilettanti per 2 volte consecutive. Sentiamolo. Io vengo da una famiglia di 12 persone e per questi incontri non mi sono preso mai un soldo. Io dopo lavoravo, in una ditta edile, insomma, 54 metri d'altezza sopra a una tavola così. Poi dopo finivo di là, 4:30, e me ne andavo a piedi a piedi. Poi mi allenavo, prendevo le botte, a piedi un'altra volta. Agostino Cossia è stato il primo pugile napoletano a partecipare alle Olimpiadi. Come peso piuma gareggia alle Olimpiadi del 1956 a Melbourne. Sentiamolo. Io sono stato il primo napoletano che sono andato alle Olimpiadi. È stato magnifico, io non ho dormito 7 giorni. Cossia e Pironti sono amici, frequentano la stessa palestra, fanno a cazzotti insieme con i malviventi che incontrano per strada, parlano la stessa lingua, anche se vengono da 2 mondi diversi. E il pugilato napoletano è anche questo, una comunità di fratelli che si prendono a pugni ma che continuano a rispettarsi. Intanto le palestre tornano a riempirsi, 2 su tutte. L'Olimpia è una palestra che ha fatto storia a Napoli. L'allenatore si chiama Nino Camerlingo. Vede poco, ma è un pozzo di scienza del pugilato, come confermano i pugili Agostino Cossia e Tullio Pironti. Per me era un santone nel pugilato come maestro. Poi c'aveva anche i difetti suoi, come c'ero io e tutti quanti. Era come un padre per i pugili. Cioè, i pugili sono ragazzi che avevamo 15-16 anni. Prendevamo tutti dalle sue labbra quelle che diceva lui. Qualche anno più tardi nasce la Fulgor in concorrenza all'Olimpia, in un sottoscala. Così il ricordo dell'allenatore Geppino Silvestri e del pugile Tullio Pironti. L'Olimpia c'era già da 10 anni prima di me e poi siamo diventati rivali, rivali nel vero senso della parola, rivali corretti e sportivi. Camerlingo era un maestro in gamba col quale ci confrontavamo spesso e stavamo sempre insieme, insomma, eravamo amici. Apparentemente sembravano amici, ma si odiavano, nella verità di fatti. Poi c'era una grande rivalità, Camerlingo che lo snobbava, Silvestri che era un bravo maestro. Ma la rivalità si vedeva solamente nei campionati, i pugili della Fulgor, i pugili dell'Olimpia si dovevano comunque affrontare. Ricordo di un match che era straordinario, cioè fra un pugile della Fulgor che si chiamava Di Domenico e un pugile dell'Olimpia Napoli che si chiamava Bruno. Era la forza contro la tecnica e questo della Fulgor lo mise KO. Fu un giorno terribile per la nostra palestra. E vedendo questi giovani che combattevano, gli piacevano, si innamoravano del loro pugilato, si venivano a iscrivere in palestra e si aumentava sempre di più il numero dei ragazzi. Niente è più come prima, la città ormai è riconoscibile e anche il pugilato ha perso quel romanticismo della povertà del dopoguerra. Sono gli anni 60. È il 1960. In Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, la box diventa un'altra strada per gli emigranti in cerca di fortuna al nord. Il pugilato è sempre più popolare e del resto è proprio negli anni 60 che la box italiana conosce gloria e fortuna. Alle Olimpiadi di Roma il pugilato italiano raccoglie il massimo delle vittorie e dei successi. Vince 3 medaglie d'oro, 1 d'argento e 3 di bronzo. È l'Olimpiade di Benvenuti, l'Olimpiade di De Piccoli, di Bossi. Il mitico Nino Benvenuti diventa il pugile italiano che detiene più titoli. Dalla medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma al titolo mondiale che vince contro un pugile durissimo, l'afroamericano Emil Griffith. In favor of Benvenuti! Benvenuti! Benvenuti è campione del mondo! I Lina Di Masi, cercavo di imitare Nino Benvenuti, perché io boxavo bene, ragionavo, scappavo, non volevo prendere colpi, però ammiravo il coraggio e l'audacia di Mazzinghi, che è stato veramente un grande pugile. Avete sentito Tullio Pironti, intanto però cambia anche il modo di boxare. Le nuove regole proteggono gli atleti e la box si è fatta più tecnica. Nelle palestre ormai si allenano anche gli studenti universitari, ma il grande pugilato di Napoli sembra solo un ricordo. È il 1980, un nuovo idolo sbalordisce l'Italia intera, imponendosi alle Olimpiadi di Mosca, e quel ragazzo viene da Napoli. Vito mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu a chi tiene a mente. È Patrizio Liva, l'uomo che deve far sperare per il futuro della box italiana. In un'Europa occidentale in quel momento scarsa di talenti, potrà ridare all'Italia quei trofei ultimamente dimenticati. Ma non è dello stesso parere Tullio Pironti, che con gli amici pugili Agostino Costia e Tonino Borraccia ricorda il valore della box nei suoi anni. Allora c'era più sacrificio, più volontà. Io credo che Agostino Costia, campione d'Italia, professionista, in confronto a Patrizio Oliva, vinceva Agostino Costia tranquillamente. Ma non perché Oliva, sono epoche diverse, sono epoche completamente diverse. A me mi piaceva, non mi sono mai fatto un'illusione, adesso divento qua, divento là. Era solo che quando andavo sul ring, la mia unica soddisfazione era che l'arbitro veniva vicino e alzava la mano e diceva: vinto Costia, vince i punti Costia e basta. Io credo che il pugilato è una scuola di vita, ma qualsiasi sport dilettantistico, non sport professionisti, ma sport è una scuola di vita. Ti insegna innanzitutto il pugilato, ti insegna la lealtà, il rispetto verso gli altri. A me mi ha fatto proprio, mi ha rivoltato da così a così, perché se non avessi fatto del pugilato, ma che cosa facevo? Come gli altri miei amici scugnizi, tutti io. Tutto in galera, o in carcere, o tutta gente malfamata. Fu una serata terribile. Questo signore picchiava, vinceva sempre prima del limite. Il mio avversario si chiamava Zara, era un torinese. L'incontro mi ricorda, io ricordo che la prima ripresa io come al solito riuscii a colpirlo varie volte con il mio sinistro, che era velocissimo, e lui non riuscì a darmi nemmeno un colpo. Alla seconda ripresa, in un corpo a corpo, lo vidi che preparava il destro, mentre io pensavo come schivarlo. Potevo, se dovevo abbassarmi e farmi passare il destro sulla spalla, o fare un passo indietro. Mentre pensavo, mi abbasso, faccio un passo indietro, mi arrivo il suo destro sulla mascella. Cadde a terra, non mi rialzai più, mi ritrovai negli spogliatoi con un signore che mi diceva: che giorno è? Che giorno è? Che giorno è? E io gli rispondo: alla fine, chi si ricorda? Non lo so. Fu l'ultimo mio combattimento, e meno male, perché i pugni in verità fanno male. Con i cazzotti napoletani continuiamo su Mix 24 dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Nella storia che raccontiamo oggi, fatta di sudore, di pugni, di sofferenza, c'è anche una grande storia d'amore. Tonino Borraccia, il pugile andato negli Stati Uniti con la nazionale italiana, fa un viaggio a Copenaghen. Lì conosce una ragazza di 19 anni e comincia una grande avventura. Sentiamo Tonino e Conny Borraccia. Io, come tutti i napoletani, non mi trovo mai a disagio, specialmente quando si tratta di andare all'estero. Stavamo a Copenaghen, stavamo con la squadra italiana di pugilato, non la nazionale italiana. Dovevamo affrontare la Danimarca e poi la Svezia. Semplicemente camminando per la strada, che eravamo liberi, abbiamo incontrato queste ragazze? Era nel 1951, il mese di settembre. Facevo una passeggiata a Copenaghen con mia amica. Dovevamo andare al cinema. Allora io, un pochettino più spigliato degli altri, io subito mi sono avventato. Dico, guarda che belle ragazze. Da lì abbiamo parlato per modo di dire, perché noi non capivamo niente. E così abbiamo parlato del più, del meno, dove sei, dove non sei. Dopo poco tempo dico, ma dammi l'indirizzo che io poi ti scrivo. Come al solito, dovunque si va, l'indirizzo, si scrive una cartolina, una lettera e poi finisce tutto. Invece con lei è stato differente. Una lettera, poi una cartolina, poi ancora una cartolina, una lettera. Era lui che mandava le lettere e cartoline ogni giorno. Poi avevamo già deciso quando io avevo 18 anni e sarebbe andato a Napoli a trovarlo. Nel 54 io ho una sua lettera dove sta scritto che lui deve partire per l'America. E allora io decido di fargli una sorpresa prima che lui parte e prende la motocicletta e parte. Sono 3.000 chilometri. Solo mia madre sapeva che io partiva. Faccio 500 chilometri al giorno, dorme in questi motel dove sono i camionisti. Finalmente, dopo 6 giorni, arriva a Napoli. Era di sera, passo sotto la grotta. Era buio completamente, non si vedeva niente. E improvvisamente davanti a me vedo un carro con un asino davanti e faccio per evitare, però cade dentro alle binarie del tram. Ho fatto un salto che improvvisamente mi trovo di nuovo sopra alla strada, insomma. Subito è venuto tanti uomini dal marciapiedi a aiutarmi a mettere queste motociclette in piedi, perché non so quanto pesa, 150 kg, non lo so. Napoli nel 54 non hanno mai visto una donna su una motocicletta. Avevo i capelli molto lunghi allora e mi toccava, volevano domandare, io non capivo niente, io pensavo solo come dovevo arrivare giù al porto. Quando sono andata, non mi hanno fatto entrare. Ho visto la nave, l'enorme Andrea Doria, ho visto. All'ultimo non ce la facevo più, mi sono messa a piangere. Allora vedo improvvisamente una cosa piccolissima, nera, il sagomo di Tonino là sopra. E la nave incomincia a staccarsi. Vedo che lui mi ha salutato con la mano e la nave incomincia ad andare. Allora ho preso la motocicletta e l'ho seguito la nave fino a Posillipo, che vuol dire l'ultimo punto della città. In alto vedevo sempre questa nave, si allontana, si allontana, si allontana. Quando non lo vedevo più, ho girato la motocicletta e incominciato altri 6 giorni per andare a casa. Nel 1957 decido di nuovo di venire, ma questa volta in macchina. Sono arrivato a Napoli, non sapeva dove stavo, lo sapeva soltanto che era venuto dall'America. Sono andato logicamente a casa sua improvvisamente vede Tonino camminare, venire proprio incontro. E lì l'ho visto. Allora lui ha detto: se resta qui, ricordati che è per sempre. E dopo un anno ci siamo sposati nel 58. Se penso oggi, io sono terrorizzato dal mio fare una cosa simile. Veramente non lo so. Si vede che l'amore è così forte che prende possesso in uno, non sa neanche quello che fa. Posso? La mia vita. Maite Carpi ha intervistato alcuni protagonisti di questa storia e ha realizzato un documentario con Daniele Cini. Ecco Maite, tu sei una giornalista spagnola che vive da tanti anni in Italia, ma come mai stimolata da una storia come questa? Beh, innanzitutto mi piace moltissimo il pugilato, sono una grande fan. Dopo un giorno guardavo uno dei bellissimi documentari dove si parlava della presenza dei grandi portaerei americani sul Golfo di Napoli. Sì. E sento dire che erano pochi i napoletani che riuscivano a salire su queste grandissime, enormi navi. E tra questo gruppo di persone c'erano i pugili napoletani che andavano a combattere con i grandi pugili nordamericani per facilitare questo allenamento. E mi sono subito incuriosita. Incuriosita questa storia. Che cosa erano questi scugnizi napoletani che salivano a incontrarsi con tipi come Jack LaMotta, no? Comunque questi personaggi, Tullio Pironti, gli altri, che cosa ti ha affascinato di loro invece? Questo della storia, ma di loro? Di loro mi ha affascinato fondamentalmente la capacità di spingersi oltre, la capacità di sacrificio, perché la vita, le condizioni della vita in quegli anni erano veramente dure, e soprattutto la fantasia, perché ognuno di loro ha inventato la propria vita. Ecco, però in questa storia di sudore, di pugni, di sofferenza, c'è anche una grande storia d'amore, così? Una grande storia d'amore, perché abbiamo avuto la fortuna e la vita ci ha regalato una bella storia d'amore con Tonino Borraccia, che è il pugile che è andato negli Stati Uniti, era parte della nazionale italiana, e fa un viaggio a Copenaghen, lì conosce una ragazza di 19 anni e comincia una grande avventura della sua vita, un'altra in più. Che cosa ti ha colpito di loro, intervistandoli, vedendoli lì in carne? Mi ha colpito fondamentalmente la generosità con cui vanno, abbracciano la vita, e questo amore travolgente che ha fatto miracoli, no? E questa, soprattutto la fantasia con cui hanno abbracciato questa risoluzione finale, no? Senti, tu sei anche una sceneggiatrice di successo, di cinema, di fiction. Ecco, una storia così l'avresti mai pensata? Non credo. Non ci si può avventurare. No, la realtà e la vita vanno oltre il cinema e la letteratura.